Buonasera e ben ritrovati a questa ultimissimissimissima puntata della 10ª stagione di Maite FM. Chi vi parla dagli studi arroventati di Radio Città Fujiko 103.1 e Claudia Maiti Mau. Siamo state assenti per un po', anche perché avevamo fatto l'ultima puntata originale su Arti Vive Festival, e siccome nella programmazione c'erano molti artisti a cui noi precedentemente avevamo dedicato le nostre monografie, ce le siamo giocate come repliche nel frattempo, e poi c'è stata la genesi di questa puntata. Forse non era prevista, però niente, è uscito questo disco Reward di Kate Le Bon il 24 maggio per Mexican Summer, e ci è piaciuto così tanto che non volevamo far passare la stagione, l'estate, perché insomma volevamo parlarne subito, perché l'abbiamo ascoltato subito tanto per una cantautrice gallese che abbiamo sempre conosciuto di nome, abbiamo anche visto dal vivo una volta e me l'hanno dovuto ricordare perché non ne avevo memoria, ma che non avevo mai ascoltato approfonditamente. Ma questo Reward me ne ha dato l'occasione, e partiamo sempre con il pezzo di apertura dell'album, la bellissima Miami, che non è Miami, non è Miami, ma è Miami. Dice venga da un gioco, uno scherzo, non sappiamo quale, non sappiamo se è riferito al nostro caro Simon Le Bon, vero nome Kate Timothy, nata a Pembroke nel Carmarthenshire, nel Galles. Attiva in realtà il primo singolo è del 2007, seguito da un EP nel 2008 in lingua gallese e poi dal primo album di esordio nel 2009. Questo disco Reward, per chi la conosce si sarà reso conto che è molto diverso dal suo stile post-punk, psych rock, sghembo, l'ho sempre definita così, anche se appunto non l'ho mai ascoltata con continuità né attenzione, ma appunto sono molto contenta di aver avuto la possibilità di ascoltare tutta la sua produzione e di affezionarmi a questo ultimo disco, ma a tutto appunto la sua discografia, in quanto appunto questa trasmissione è nata nei ritagli di tempo e quindi insomma sono più di 3 settimane che ascoltiamo la musica di Kate Le Bon, e a differenza di altre volte in realtà di roba scritta non abbiamo niente, ci siamo fatte così riempire dai suoni. E appunto, parlando del suo debutto con un singolo del 2007, ce l'ascoltiamo, era No One Can Drag Me Down, ovviamente molto più tradizionale nei suoni, tipicamente British. Poi la mia opinione personale è che a livello di evoluzione, a livello di produzione, a livello di suoni, a livello di creatività, potrebbe essere una pari di un personaggio come Damon Albarn. Track Me Down, il singolo di esordio di Kate Le Bon, che è stato insomma un po' una scoperta, la pupilla di Kraft Fritz, dei Super Furry Animals, insomma uno dei principali gruppi di insomma indie del Galles, e che proprio nel 2007 se l'è portata in tour in Gran Bretagna per aprire i suoi concerti. E siccome appunto non mi sono scritta molte cose, ho però letto tante interviste relative a Reward, perché è l'ultimo disco, il quinto album a sua firma personale, il disco di cui parliamo questa sera, corredato come sempre da tutta la discografia in ordine rigorosamente cronologico, alternata dai cosiddetti contributi esterni, ovvero collaborazioni, featuring, perché ne ha fatti tanti, amici, ispiratori, collaboratori, per una puntata che, essendo l'ultima e avendo avuto una genesi così lunga, è più lunga delle quasi due ore di Might FM. E appunto il 2007 era l'anno dell'album Candy Lion di Gruff Rhys, e siccome appunto per fare onore alle origini gallesi, e anche Gruff Rhys ogni tanto, anche con i Super Furry Animals credo che abbiamo fatto un EP o addirittura un album intero tutto in gallese, tratto dall'album di quell'anno nel cui tour c'era anche Kate Le Bon, abbiamo deciso di mettere un pezzo in gallese, si chiama Girru Girru Girru Girru Girru Girru Girru, che penso che mi pare che significhi guida guida guida, guidare guidare guidare, drive drive drive. Comunque il gallese ha un suono fighissimo. Questa canzone non si dice molto altro. Appunto, dicevo, come ho letto molte interviste in promozione di questo ultimo album Reward, uscito, abbiamo detto, 24 maggio per la Mexican Summer. Tra l'altro ho notato che ogni album è uscito per un'etichetta diversa, molto nomade dal punto di vista discografico, approdando, anche perché appunto da 4-5 anni risiede negli Stati Uniti, a Los Angeles, la Mexican Summer di Brooklyn, che insomma è stata l'etichetta di Wise Blood, Conan Mocassin, Ariel Pink, insomma un sacco di gente stranuccia, come lo è anche lei se si vedono i suoi video e le sue immagini. E quindi leggerò qua e là da varie interviste che ha dato appunto in promozione del disco. E il punto comune della storia di questo disco Reward, tra poco arriverà il secondo pezzo, Daylight Matters, che è stato il primo pezzo che è stato diffuso in anticipazione del disco a marzo. L'argomento principale è stato appunto la genesi di questo disco. Dopo diversi anni in cui appunto si ripeteva il ciclo album, tour, album, registrazione, poi promozione, eccetera eccetera, Kate si è chiesta se appunto ci fosse ancora della passione sincera o se fosse appunto diventato un'abitudine o un lavoro come un altro. E racconta che, diciamo, la resa dei conti, questa parola che viene usata spesso, reckoning, le si è presentata davanti proprio quando era a Miami. A returning the air, and I'm never gonna feel them again. L'esigenza, la necessità di una pausa e la possibilità di realizzare un desiderio covato da molto, ovvero di frequentare un corso, una scuola di design e costruzione, furniture course, di mobili, di arredamento. E di farlo in totale isolamento, in quanto questo corso a tempo pieno è in una zona abbastanza isolata, bucolica del nord-ovest dell'Inghilterra, una regione conosciuta come Lake District, e dove lei si è affittato un cottage, è l'unica compagnia, forse il padrone di casa, e un pianoforte comprato di seconda mano. Era la prima volta che era proprietaria di un pianoforte tutto suo e se l'è portato dietro per farsi compagnia alla fine di giornate che, soprattutto i primi tempi, erano appunto 8 ore al giorno di lavoro, soprattutto manuale, molto molto intenso, e queste giornate molto faticose che all'inizio non le lasciavano l'energia solo di buttarsi nella vasca e starci delle ore, ma poi con il passare del tempo ha cominciato a suonare questo pianoforte e senza rendersene conto sono nate delle canzoni. Ma dicevamo, nel 2008, primo EP in lingua gallese, e ci ascoltiamo un pezzo molto carino che si chiama Mas Mas. Perché il gallese ha spesso questo suono che è come il verso di il paperino. Cadw, cadw i'n ar y di. L'EP, appunto in lingua gallese, porta il titolo di Edrichin Liagaid Cheffil Bentik. Ovviamente la mia pronuncia è ineccepibile, tanto non c'è nessuno qui a smentirmi, che significa tipo guardare un cavallo regalato in bocca, un po' l'equivalente di a cavallo donato non si guarda in bocca, invece sì, che poi è anche l'equivalente di un detto inglese, invece, che è appunto look in the eye of a borrowed horse, guardare negli occhi di un cavallo in prestito, invece in questo caso guardare nella bocca di un cavallo donato. appunto tornando alla genesi di Reward, un lavoro che è nato proprio da un anno e mezzo di solitudine e di lavoro manuale, tanto che alla fine ha anche paragonato il suo album ad una sedia. Anche coadiuvata da un ascolto quotidiano e molto intenso della musica di David Bowie. Finisce questa deliziosa mass e dicevamo di come Kettle Bones è stata una scoperta di Graf Riss, che la paragonava giustamente per il tono di voce delle prime produzioni alla voce di Nico dei Velvet Underground, e in molti casi anche la musica ricorda i Velvet, e che nel 2008 la chiama a cantare in un pezzo, un singolo, I Lost You, del suo progetto di Graf Riss elettronico parallelo in Neon Neon. L'album era il 2008, si chiamava Stainless Style, e comunque noi anni e anni fa dedicammo una delle nostre monografie a Hotel Shampoo di Graf Riss, essendo state grandi grandi fan dei Super Furry Animals, e quindi suonammo una canzone di questo disco, che però era un altro singolo. Non mi ricordo se era I Colder o Alderan, c'era sicuramente la parola Alderan. Questa prima intervista dal sito Aquarium Drunkard le viene chiesto: consideri questo periodo della tua vita come più dedicato alla musica o più a te stessa? È questo periodo appunto di frequentazione della scuola, di isolamento, e c'è stato tutte e due le cose, perché io volevo raddrizzare la mia relazione con la musica, perché appunto ero in questo ciclo per un sacco di tempo di fare un disco, portarlo in tour, scrivere quello nuovo, eccetera eccetera, e poi oltre ai dischi miei, i dischi con Tim Priestley, un altro musicista, suo appunto collaboratore storico col nome Drinks, con cui appunto ha fatto due album in mezzo, e quindi insomma tutto, dice, sembrava come un chore, cioè quasi un lavoro, un lavoro domestico, anzi, chores. Se chiede alle persone di investire nella musica, devi essere davvero sicura che lo facciano per le giuste ragioni, o che tu abbia delle buone ragioni per fare musica, e che soprattutto appunto non sia solo abitudine. E siamo tornati a un altro delizioso pezzo, il secondo singolo e video diffusi in anticipazione dell'album, era Aprile, si chiama Home to You, e ha un video molto particolare che è un film, un piccolo cortometraggio a firma di un regista che ha firmato diversi altri video, anche se devo dire che il 90% sono firmati da sempre lo stesso Casey Raymond, che la seconda molto nelle sue follie. questo video appunto ha una storia particolare. Qui c'è anche una banda che riproduce questo stesso pezzo, questa stessa musica, sarebbe bello sentire appunto la versione intera. Come sempre noi abbiamo postato sulla nostra pagina Mighty FM Radio a partire da 2-3 giorni fa tutta la videografia, dal primo video ufficiale della discografia di Kate Le Bon fino a appunto questi ultimi, e proprio stasera alle 8 abbiamo postato quest'ultimo video, Home to You, che è stato girato a Košice, Slovacchia, in collaborazione con i residenti di un quartiere che si chiama Lunik 9, assolutamente emarginato, in periferia, abitato da popolazione Sinti, e coprodotto da Kino Usmev, che è un'iniziativa educativa che mira a stabilire relazioni tra i giovani del quartiere Lunik 9 e altre parti della città attraverso dei seminari di filmmaking, delle produzioni pratiche e poi la presentazione pubblica dei lavori prodotti. Delle nostre trasmissioni non parlerò dei testi che ho letto, ovviamente, perché sono molto criptici, indecifrabili, anche perché spesso che in passato la cifra stilistica dei testi Kate Le Bon è appunto la surrealtà e l'absurdism. Quindi il periodo passato, un anno e mezzo a frequentare questa scuola, il duro lavoro manuale, ha fatto in modo che il lavoro diventasse appunto quello della scuola di costruzione di mobili, e che la musica diventasse un hobby, quindi un'attività ricreativa, un'attività piacevole, un'attività necessaria appunto come valvola di sfogo, un'attività creativa. Quindi la nascita delle canzoni, cioè come sono nate poi le singole canzoni, è stato un processo più o meno spontaneo e inconsapevole, però l'idea che dopo ci sarebbe stato un disco era presente, perché appunto aveva appena firmato per la nuova etichetta, la Mexican Summer. Però dice: mi stancavo così tanto che appunto strisciavo verso la vasca e poi dovevo fare i compiti. Ovviamente c'erano anche i compiti a casa di questo corso. Però poi mi mettevo al pianoforte e proprio giravo l'interruttore, mi immergevo nella musica, e quindi ho ribaltato la relazione con la musica, e quindi scoprendo appunto di nuovo il suo rinnovato amore per fare musica. E dicevamo che dopo il primo singolo 2007, il primo EP del 2008, arriva l'album nel 2009. L'album si chiama Me Oh My, e abbiamo scelto tre pezzi mixati insieme. Uno era un singolo e il primo video ufficiale, Shoe in the Bones, seguito da Hollow Trees House Hounds, per finire con Eyes So Bright. I've got a love, I've got a love. Open my hand and make a jump. I'm on a train, it's overrun. I fought like it's not the only one. Where could you go? Where could you stay? I'll die on my feet, not pass away. Gripping the rope in days just gone, and chewing the bones for everyone. And these are hard times to fall in love. These are hard times to fall in love. These are hard times to fall in love. These are hard times to fall in love. I move from the belly of its echo. Passato appunto al secondo pezzo tratto che abbiamo scelto da Me, Oh My. Appunto, tornando all'intervista su Reward, lei dice: non avevo sempre wifi, non avevo la televisione, ascoltavo la radio, ho letto probabilmente più libri in un anno e mezzo di quanto ne abbia letti negli ultimi cinque anni, precedenti cinque anni. E quindi insomma sembra una cosa molto romantica, molto positiva, sto imparando a fare delle robe, usare le mie mani per costruire delle cose, sto leggendo tutti questi libri. Però c'è anche l'altro lato della medaglia, ovvero stare da sole per un periodo così lungo, non avere nessun amico lassù, pochissime visite, come sempre molte meno di quelle annunciate, giurate, ti vengo a trovare, poi invece sono state molto molto poche le visite. E però alla fine ci sono stati i risultati, e lei dice sì, e anche un sacco di mobili strani. Sacco di mobili che ha fatto e ha dato via, dice che c'è appunto una sedia Missing in Action appunto a Marfa, il primo posto dove si è precipitata dopo la fine del corso è stato appunto il festival Marfa Meets in Texas, dove ha iniziato a lavorare con Bradford Cox dei Deer Hunter per un progetto insieme che però non ha visto ancora la luce. E però appunto ha fatto una sedia, o ha portato una sedia, insomma, che è finita lì da qualche parte, ma invece poi ne è nato invece un lavoro importante, in quanto appunto l'ultima cosa che si può dire delle imprese di Kate Le Bon è che è la lead producer, quindi la produttrice principale dell'ultimo molto bello album dei Deer Hunter. I so bright, they just night, and I'll come for you. E comunque nella sua attività musicale fin dall'inizio si è sempre circondata da sempre degli stessi più o meno musicisti, uno dei quali è il suo nome d'arte, è H. O'Klein, e adesso non parlo perché questa canzone è troppo. Thank you. to your cross, post you to the warm collapse of night. But in the pocket of my tenancy, no common sense applies. Without the means to recompense your circle in the eddy of my eye. E insomma, ho scoperto H.O. Klein, ho scoperto i suoi dischi, ho scoperto questo pezzo. Sembra quasi una versione estremamente rasserenante e anche ovviamente commovente, perché per me non può essere altrimenti, quasi di Smith, Morris e qualcosa che vorrei non finisse mai. H.O. Klein, nome d'arte di Hugh Evans, anche lui gallese, e questo suo nome d'arte, e ha sempre suonato con Kate Le Bon, anche perché era il suo ragazzo, anche perché era anche il suo ragazzo e anche quello che ha spesso, quasi sempre, curato l'artwork delle copertine dei dischi di Kate, dei propri, anche dell'ultimo, Reward. Ma anche di Heads Up delle Warpaint, ma anche di Designer di Aldous Harding, in quanto Aldous Harding è l'attuale fidanzata e quindi lui fa parte della live band e quindi l'ho visto di Aldous Harding. Cioè, se le sceglie belle stranette, E questo sodalizio, questa amicizia, appunto, insieme andarono negli Stati Uniti, insomma, per stabilirsi di là. Questa amicizia rimane, adesso lui appunto di base negli Stati Uniti, sì, nella Gran Bretagna. Ed è stato lui che lei ha cercato insieme ad altri storici collaboratori per realizzare queste canzoni, che sì, sono nate in modo semplice al pianoforte, ma che appunto la realizzazione è stata molto complessa, il processo è stato molto lungo e lei ha girato tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra, cioè anche all'estero, per produrre Reward. E appunto questo sodalizio con H.O. Klein si è concretizzato anche nei primi lavori di produzione da parte di Kate, che già nel 2015 ha prodotto il secondo album di H.O. Klein, In the Pink of Condition, e poi ha coprodotto con Samir Khuja, che invece è uno dei due produttori di Reward, un album del 2017, I Romanticize, che si conclude appunto con questa Last Thing on Your Mind, che abbiamo dovuto sfumare. E torniamo a un pezzo di Reward, Mothers, Mothers Magazines. Le figure femminili, anche Sister, c'è un pezzo di un disco di qualche anno fa, ritornano spesso, e anche lei appunto nelle interviste dice che fa riferimento alle donne della sua famiglia, cioè ha una zia paterna, una zia materna, sua madre, due sorelle, ha un universo femminile familiare in cui ha appunto dei rapporti molto molto forti. E parla di come appunto sua madre, insomma, è arrivata alla pensione, e sua zia, dopo che hanno lavorato per istituzioni politiche, però appunto in modo molto così passivo, adesso hanno cominciato ad incazzarsi e a partecipare a un sacco di marce, manifestazioni di protesta. Never before. Ecco, questo pezzo appunto, Mothers, Mothers Magazines, è particolarmente sghembo come molti pezzi della produzione precedente, e si sente appunto la chitarra, che non si sente spesso in questo disco. È sia la chitarra di H.O. Klein e un altro collaboratore, perché appunto si è rivolta da vecchi amici musicisti, persone fidatissime, anche quella di Josh Klinghoffer, attuale chitarrista dei Red Hot Chili Peppers. Mothers, mothers, magazines. Try. infatti scorrendo l'intervista vedo proprio che le viene chiesto: è stato difficile portare queste canzoni che sono nate in isolamento, portarle, presentarle, lavorarci, collaborazione con altre persone. Dice: ecco, per questo che io lavoro con le persone che amo e di cui mi fido, che appunto pezzi molto più intimi perché sono stati fatti in isolamento, e anche perché appunto è stato un anno strano, per questo motivo volevo lavorare con persone che sono gentili e che, di cui mi potevo fidare pienamente. Dice poi: ho lavorato appunto in modo incrementale, lavorando singolarmente con ognuno degli altri musicisti, e quindi in modo opposto al ok, venite tutti, suoniamo tutti insieme nello stesso momento, e questo ha aiutato molto, però appunto questo ha reso il processo molto più lungo. Processo di registrazione che ha proprio rispecchiato lo stesso processo di fare un pezzo di mobilia, e quindi lei ha applicato le capacità acquistate facendo il corso a un'altra disciplina, ovvero la registrazione di un disco, e ciò ha reso le canzoni quasi appunto solide nella loro struttura, quasi come pezzi di legno. Questo disco e Le Bonne in generale mi ha ricordato un altro gruppo, un po' Sghembo, su cui io feci una monografia tanti anni fa, erano i Chap, l'album era We Are Nobody, a cui ci ascoltiamo Rhythm King. Rhythm King, play the rhythm of my heart. Lead the dance, play the rhythm of my heart. No one plays the rhythm like the king of rhythm, king of heart. Show me the way out of the darkness and remind me where my heart is. Lead the dance. No one plays the rhythm like the king of rhythm, king of heart. Show me the way out of the darkness and remind me where my heart is. Io non, poi non li ho più seguiti, vedo questi innamoramenti così, queste fiammate passeggere, ma vedo che sono ancora attivi. North London, un quintetto curioso che dopo We Are Nobody però ha fatto un solo altro disco. Insomma, giusto per rendere più lunga e corposa questa trasmissione, ci ho voluto infilare pure loro. Per Stereogam, e Kate esordisce dicendo che appunto è stato un grande cambiamento proprio esistenziale collegato a questo nuovo album. Invece c'è una sensazione di assurdo che viene dopo un grande cambiamento. Ero in tour a Miami e questo cambiamento, questo shift è capitato, è successo. E siamo arrivati al secondo album del 2012, Cirque, scritto C-Y-R-K, ovvero circo in polacco, credo. E anche in questo caso ho scelto tre pezzi. Questa prima era sempre uno dei singoli, Puts Me to Work, seguita dalla title track e poi da Fold the Cloth, anche questo video. Questo passaggio suonava i Beatles e i Rolling Stones. Siamo passati appunto a Cirque e continuando con l'intervista di Stereogam dice questo reckoning, questa resa dei conti, questo grande cambiamento, questo momento proprio decisivo mi è capitato quando ero a Miami, cioè che appunto una cosa curiosa, paradossale è che proprio il posto più lontano, proprio l'opposto dei luoghi da cui io vengo. E quindi molta parte del disco parla di cambiamento, alienazione e dissociazione. Ovviamente comincia a raccontare del suo trasferimento nell'aprile 2017 in Cambria, appunto Lake District è nella regione detta Cambria, e tra l'altro poi il 2017 non è che sia stato privo di produzioni, perché poi sentiremo nell'ultima produzione a firma che Le Bon evidentemente è stata prodotta nel 2016, ma uscita nel 2017 un EP, come anche era stato prodotto appunto il secondo album collaborativo con Tim Priestley a nome Drinks, che poi è stato pubblicato nel 2018, quindi mai un anno senza Kate Le Bon. E racconta che appunto nonostante la fatica fisica era molto bello avere una routine, alzarsi alla stessa ora, abitare nello stesso posto per un anno e mezzo. E adesso appunto per motivi di tempo sfuma Fold the Cloth e torniamo a Reward con un pezzo che si chiama Here It Comes Again. anche questo delicatissimo. Nato proprio dal concedersi, darsi il permesso di fare una cosa che comunque le aveva sempre interessato, perché è sempre stata interessata in design e architettura. Precedentemente aveva fatto un corso di ceramica e il risultato è stato Mug Museum, appunto un album precedente, cui nel pre-order ti veniva anche in regalo una delle tazze fatte da lei. Infatti c'è anche un video di un pezzo tratto da quel disco dove c'è proprio lei al tornio che fa queste tazze, e perché ama appunto dedicarsi a cose che siano l'opposto di fare musica, ovvero fare qualcosa con le tue mani ma che poi appunto rimanga appunto un prodotto solido e tangibile. E il giornalista le dice: sì, però anche fare musica e costruire qualcosa, c'è comunque una struttura. Però le dice: ma una canzone, dopo che la lanci nell'etere, si perde nella saturazione. Invece, in un pezzo di arredamento, in un mobile, c'è qualcosa di concreto e di rassicurante. Half-draped eyes in a liquid night fall apart when you do. E poi racconta di come comunque costruire dei mobili sia un po' come fare musica, nel senso, quando tu fai una canzone ci butti dentro un po' tutte le tue influenze, ispirazioni che forse non sono molto coerenti, sono un po' incongrue, però appunto fatto appunto dei pezzi di arredamento molto strani, non sono molto sicura di cosa siano, però ce n'è uno che ha dei cassetti e ti ci puoi sedere sopra se vuoi. Insomma, Kate appunto comincia ad essere conosciuta dopo due album, dopo Cirque nel 2012, e infatti è questo primo album che ho trovato, di cui ho trovato le recensioni su Metacritic, il sito che appunto raduna tutte le principali recensioni di un album dei media specializzati di lingua inglese generalmente. Appunto Cirque nel 2012 ottenne un 81 di media su 23 recensioni, definito appunto stranezza meravigliosa. Suoni surreali associati a sensibilità pop, psicrock anni 70, off-kilter appunto, è quello appunto l'aggettivo che significherebbe strano, strambo. E quindi dopo un secondo album ufficiale, dopo 5 anni di attività, nel 2013 cominciano ad arrivare i featuring, che sono stati diversi e che è abbastanza eclettici, come abbiamo scritto nella nostra presentazione, e uno di questi è con un altro gruppo storico del Galles, ovvero i Manic Street Preachers, che nel 2013 pubblicano Rewind the Film e chiamano Kate Le Bon per cantare in questa Four Lonely Roads. Preachers, la band di James Dean Bradfield, poi segnata appunto dalla scomparsa di uno dei suoi membri mai più ritrovato, non si sa se è morto o no. Ricordiamo gli album di debutto Generation Terrorists, bellissimo, poi Everything Must Go, dove ha fatto insomma anche molto successo mainstream. Ma siccome appunto abbiamo capito che Kate è una iperattiva workaholic, grandissima musicista, forse appunto dalle outtakes delle sessioni di registrazione o scrittura di Cirque, ne ha ricavato e pubblicato nello stesso anno 2012 Cirque 2, un EP da cui appunto ci ascoltiamo What Is Worse. And 12 of this together, and what is worse? What is worse? I'm a terrible. Uno dice, te lo potresti anche risparmiare, no? Qualche release, magari non è che devi proprio farci ascoltare tutto. Invece mi sono così appassionata alla sua musica che ho trascurato sempre, che beccatevela. And now I am che le è piaciuta del fare i mobili è che lo fai per te stesso e non hai bisogno di accettazione o di applausi, e quello che ti rimane è appunto dei mobili. E appunto le viene chiesto se ne ha fatti tanti, che fine hanno fatto, appunto dice sì, io li ho dati via, la gente mi chiedeva se li poteva avere e io li ho dati via, anche se appunto ci avevo messo dei mesi a farli, però appunto lasciare andare, questa è una cosa bella, e quindi la vera ricompensa, è reward appunto, è il fare le cose. spiace, perché poi comunque anche logisticamente non ho lo spazio per questi mobili, mentre le canzoni sono molto più facili da infilare ovunque. E finisce What Is Worse, tratto da Cirque 2 EP, sempre del 2012. Ritorniamo appunto alla ricompensa con Sad Nudes, che ha questo andamento appunto invece molto da musica classica, quasi da bolero. Processo di gestazione e registrazione molto lungo, e erano appunto le canzoni che dettavano il modo di procedere per la registrazione, e quindi un procedimento opposto a quello che dice lei appunto da musicista, in cui a volte è la strumentazione che interrompe la struttura di una canzone e la cambia. Invece era impossibile, perché queste canzoni già esistevano così, in modo così strutturato e quasi solido. Ma fortunatamente appunto nel frattempo avevo imparato l'arte della pazienza costruendo mobili, e questo mi è servito moltissimo, perché ho avuto un rapporto tempestoso con questo disco, con queste canzoni, e anche appunto dei momenti di grande frustrazione. E siamo ancora al 2013, che è stato un anno che ha visto la partecipazione al disco Manic Street Preachers, ma anche questo pezzo di un musicista di Bristol, anche autore soprattutto di colonne sonore, che lavora spesso con Robert Del Naya dei Massive Attack, con Yankel, con Damon Albarn, con Elizabeth Fraser, e si chiama Neil Davidge. Nel 2013-2014 esce questo singolo Gallant Foxes, che vede appunto la partecipazione di Kate Le Bon, poi contenuto nell'album Slow Light. I would settle down. abbiamo detto che oltre a Josh Klinghoffer dei Red Hot Chili Peppers, con cui appunto è stata una sessione a Los Angeles dove lei voleva fare più cose, però appunto dice le canzoni erano nate in un posto talmente diverso, in una circostanza così diversa, che forse appunto Los Angeles non era il posto più adatto, però siamo riusciti appunto a salvare il lavoro fatto con Josh Klinghoffer, poi appunto volare in Galles per lavorare con H. Oakline e poi il suo vecchio collaboratore nonché socio nei Drinks, Tim Priestley, con cui ha collaborato da sempre, anche appunto prodotto i suoi album, i suoi pezzi, forse anche cantato in dei pezzi. Stephen Black, che incide con il nome di Sweet Baboo, o forse Tim Priestley non c'era ma l'ho confuso con Stephen Black, ma soprattutto alla batteria, e si può riconoscere una batterista un po' prezzemolino e anche un po' che secondo me ha fatto fare amicizia con della gente che poi appunto è ritornata, ma ne parleremo un po' più avanti. Ma insomma, la presenza è molto molto frequente nei dischi di Kate Le Bon è quella di Stella Mosgawa alla batteria, ovvero Warpaint. E mentre finisce questo pezzo molto motoric di Neil Davidge, d'altra parte appunto anche sonorità care a Kate Le Bon, che anche spesso nei suoi dischi c'è suoni kraut rock uniti, appunto suoni distaccati, anche il modo appunto impassibile di cantare quasi senza emozione, unite invece a dei momenti di grande tenerezza. E siamo arrivati forse all'album della consacrazione nel 2013, quindi appunto subito dopo Mag Museum, appunto l'album cui regalava queste tazze di ceramica che aveva imparato a fare. E abbiamo scelto tre pezzi: I Can't Help You, I Think I Knew, che abbiamo già ascoltato e capirete perché in una vecchia relativamente puntata di Mighty FM, e Sisters. Ed ecco perché I Think I Knew è un duetto con Mike Hedges, Perfume Genius, e in quanto tale l'abbiamo messa in scaletta nella trasmissione dedicata a Perfume Genius. Per un disco che ricevette una media del 7.7 e anche dei 9, definito appunto Strange Boutique Folk Pop, meravigliosamente strano, con un talento particolare per il surreale, sperimentale e impressive, con un fascino appunto da strambo, oddball è il tipo strano, però affascinante. I think I knew. è un disco che era stato un po' influenzato anche dalla morte della nonna materna, quindi una delle tante donne del suo clan, infatti questo ultimo pezzo si chiama Sisters. Infatti arrivo all'intervista Stereogam, sempre casualmente l'intervistatore chiede: ho notato che nell'album Reward c'è un tema materno o dei motivi che richiamano la madre, e lei dice: è stata una cosa inconscia, ma ripensandoci il tema reale del disco è la solitudine, l'adoro ma a volte ti si può rivoltare contro. Però ho anche notato, sto notando quanto arrabbiate sono un sacco dei membri femminili della mia famiglia e come sono diventate nel corso degli anni, e l'ho notato anche in me stessa durante il mio periodo di isolamento. Forse appunto il tema in generale è relativo alle donne. E siamo tornate a Reward con un terzo pezzo che è stato diffuso su YouTube solo come audio, si chiama The Light. Sento un po' di Smith. E si parla di donne nel disco perché lei ha una sorella più grande e una sorella più piccola, molto vicina, ha un rapporto molto profondo con sua madre e poi con la zia materna e la zia paterna. E l'ultima domanda di Stereogam è: da dove viene il titolo Reward, ricompensa? E lei dice: nel mondo in cui viviamo sono sempre ovunque degli slogan e parole usate per manipolare e marginalizzare, e quindi il termine ricompensa sembrava una parola positiva, così, così com'è, senza tante costruzioni. Però poi ti fa anche pensare che è una parola che fa riferimento a una transazione, a una relazione, dove magari c'è una persona che decide quale sarà la ricompensa. E conclude dicendo: ah, che tempi strani, il linguaggio sta proprio perdendo il suo significato. Yeah. Poi ho letto un'altra intervista di iNews, sito inglese, che il titolo è assolutamente eloquente: Kate Le Bon, due punti, suonavo il pianoforte per smettere di pensare alle sedie. Finisce The Light, ritorniamo ai featuring del 2013. Invece un artista che può sembrare appunto lontano, perlomeno perché c'è un oceano di distanza, un oceano che però appunto si è scomparso nel momento in cui lei è andata a vivere negli Stati Uniti, e nel 2013 partecipa, canta in questo pezzo Slow Train di Kevin Morby, tratto da Harlem River, il suo primo debutto solista dopo aver suonato nei Woods e nei Babies, tra l'altro anche un disco di cui l'artwork è stato curato da H. Oakline, quindi il cerchio si chiude, questo è Slow Train. Adesso che arriva lei, ci dobbiamo parlare sopra per forza. Ma non è vero. Quindi parliamo sopra Kevin Morby e leggiamo il comunicato, dal comunicato della nuova etichetta Mexican Summer, per cui appunto è uscito Reward. Dicevo che tutta la sua carriera per gli album, sempre un'etichetta diversa, a partire dal 2009 era l'etichetta di Groove Fris, Irony Board, poi Cirque uscito per The Control Group, Mag Museum per la Turnstile, poi Crab Day, a cui non siamo ancora arrivati, per la Drag City, e poi Mexican Summer, che dice è stato su una montagna della Cambria che i primi sussurri del quinto album di Kate Le Bon sono spuntati dalla terra. Virgolette, c'è uno strano romanticismo nell'impazzire un po' e suonare il piano per te stessa e cantare nella notte, dice lei raccontando, rimembrando questo anno passato in solitudine nel Lake District che ha fatto nascere Reward. Di giorno imparava a fare solidi tavoli di legno, sgabelli e sedie, che poi lei dice che appunto le sedie sono il suo grande amore, e poi invece di notte suonava questo pianoforte di seconda mano per avere un po', farsi un po' di compagnia. Ecco la sua voce. Il risultato è un album stilisticamente vario, con inclinazione surrealista e tattile. E questo lo rende simile ai dischi precedenti, ma è anche intensamente introspettivo e profondo, quindi l'album più personale. Questo senso di privacy è stato mantenuto anche nel corso della registrazione, aiutato anche dai vari panorami, sfondi contro cui Reward ha preso forma: Stinson Beach a Los Angeles e Brooklyn, passando per Cardiff e The Lakes. A slow train coming, slow train gone. E durante appunto un periodo molto lungo, una serie di amati e fidati musicisti l'hanno raggiunta. Lei, Samir Kuja e l'altro coproduttore Josiah Steinbrick, ovvero Stella Mosgawa a batteria e percussioni, Stephen Black, ovvero Sweet Babu, al basso e sassofono, e i vecchi collaboratori Hugh Evans, ovvero H. Oakline, e Josh Klinghoffer alle chitarre. E tutti questi contributi appunto sono stati aggiunti uno ad uno. E il fatto che appunto questi musicisti siano stati presenti nei dischi precedenti ha aiutato quindi a preservare il signature sound, cioè il suo suono tipico riconoscibile, nonostante l'approccio per quest'album sia stato molto diverso, quasi in modo drastico. Abbiamo appena nominato Crab Day del 2016, anno in cui l'abbiamo vista, no, senza saputa, dal vivo a Porto, e abbiamo scelto Love Is Not Love, c'è anche il video, Wonderful, video, singolo e anche tra questa, super sgemba, super carina, è anche uno dei pezzi della classifica di Pitchfork dei migliori pezzi di quell'anno, e poi seguito da Find Me. E infatti questo disco Pitchfork diede 8,1 per una media invece del 7,5, un esempio della versatilità di Le Bon, sperimentazione guitar pop dell'altro mondo. Appunto, io continuo a sentire un sacco di somiglianze con Albarn, Blur, questo potrebbe essere una versione alternativa di Parklife. Fixing up a suit, glossing all your dirty furniture, dining on a lamp in the corner of your council building. Well, I might be somewhere in the house. Poi il comunicato a Mexican Summer dice: sia nel suo album di debutto del 2009, minimalista e acustico, sia nell'album Mag Museum, invece acclamato dalla critica, e come anche nel disco del 2016, questo Crab Day, il lavoro solista di Kate Le Bon ma anche il suo lavoro di produzione, come quello appunto svolto per Why Hasn't Everything Already Disappeared dei Deer Hunter di quest'anno, ha sempre resistito a venire incasellato come genere, a essere definito con un genere particolare, quasi muovendosi come un funambolo sulla corda che collega appunto krautrock, la tenerezza, questa cosa un po' comica, questa voce impassibile con cui canta i suoi testi, ma sempre con un brillio negli occhi, una scossa alla frangetta e una leccata di Telecaster. E siamo tornati forse al pezzo più sghembo di Reward, ovvero Magnificent Gestures. Spostarsi dal sole di Los Angeles e anche dalla vita sociale così intensa, da dove già viveva da 4 anni, all'isolamento di questo paesino nella Cumbria, è stato insomma un passaggio molto drastico, perché appunto dice: non vedevo nessuno al di là dei miei compagni di scuola. È anche una cosa strana, c'era il periodo delle elezioni e mi sono trovato per la prima volta con delle persone di qualsiasi classe, qualsiasi formazione, qualsiasi idea politica, che magari mi stavano anche simpatiche. Dopo si parlava di politica e è ovvio che tutti siamo nella nostra bolla, quindi parliamo, frequentiamo persone che la pensano come noi. Invece mi sono trovata gomito a gomito con delle persone che invece avevano delle idee politiche lontanissime da me. E anche il cambiamento drastico, perché comunque musicista sempre in movimento da tanti anni, tour, tutto il mondo, così alla fine ti fermi di colpo e le cose ti raggiungono, insomma alla fine devi affrontare delle cose da cui un po' sei scappato. Non riesco molto a spiegare bene cosa è successo, sembra che tutto mi incombesse su di me, tutto quanto, il passato, il presente, il futuro, e questa solitudine l'ha portata in dei luoghi interiori, come uno stato di alienazione autoimposto, e poi appunto sono nate le canzoni sul pianoforte per farsi compagnia. Questa Magnificent Gestures si sente vagamente, non è molto presente, una voce maschile che la accompagna nel ritornello o quel che è, e l'ho dovuto leggere perché non avrei mai capito, è la voce di Kurt Weill. E qui arriva l'amicizia in comune, perché Stella Mosgawa, anche lei è frequente collaboratrice di Kurt Weill, appare anche in uno dei suoi video, ed è per questo che, sebbene noi stiamo seguendo cronologicamente anche tutti gli altri progetti paralleli, collaborazioni eccetera eccetera, Kurt Weill ce lo sentiamo adesso in una versione accorciata di un terzo, pezzo lunghissimo, 9 minuti, l'abbiamo accorciato a 6, che era title track del suo ultimo disco Buttered It In, da cui avevamo già ascoltato Loading Zone, adesso non mi ricordo neanche più in quale trasmissione, per un album che appunto ho avuto modo di ascoltare con attenzione, ha dei suoni nuovi, ha dei suoni diversi, ha dei suoni originali, è lunghissimo, pezzi molto molto lunghi, ma come anche in questo pezzo bisogna un po' perderci, sì, come appunto affondare in una vasca, in uno spazio molto molto liquido, anche un po' caldo. You better bottle it in. Don't tell them that you love them for your own sake. You never know, 'cause you never know when your heart's gonna break. And that's a chance we just can't take. Bottled it in. You bottled it in. Ancora scorrendo questa intervista con iNews, parlando di Hugh Evans, ovvero H. Oakline, ci sono lasciati 4 anni fa, ma rimangono molto vicini. Le Bon produce i suoi dischi e lei è andata appunto a Cardiff proprio per registrare le parti di chitarra. Dice: non vorrei mai fare un disco in cui lui non ci fosse, che ha fatto anche l'artwork di quest'album. Ma appunto una delle persone da cui io, di cui cercherò sempre l'approvazione. Poi parla del lavoro di produzione per i Deer Hunter, cioè sono una band meravigliosa, Bradford Cox è un genio, anche se il lavoro di produzione non è mai stato quello che lei voleva fare, sebbene abbia iniziato a farlo già da diversi anni. C'è un lavoro nebuloso, cambia con ogni persona. Io quello che voglio da un produttore non è il lato tecnico, ma qualcuno che sia lì per farti pensare di andare in posti cui tu non avresti mai pensato di andare se fosse stato per te. E poi vabbè, si parla del fatto che non ci siano tante produttori donne, oppure donne artiste che producano i loro dischi. Infatti lei parla di del post di un blog, non ci dice quale, che parlava appunto dell'album di Deer Hunter, in cui non, quasi non riusciva a dire che lei era la produttrice del disco e quindi riconoscere il suo ruolo. Don't break your bones over it. E poi l'intervistatrice dice: io non avevo deciso prima di chiederle del movimento Me Too, ma questo argomento viene fuori in modo naturale. E Kate dice: strano, vero? Ci sono questi pattern comportamentali tra gli uomini e le donne che sono proprio quasi solidi, concreti. Dice: mi è successo anche a me quasi di fare un passo indietro perché ero in una stanza piena di uomini. E racconta anche di un'esperienza, aver passato veramente un brutto periodo dopo che aveva contrariato o obiettato o contraddetto insomma essersi espressa contro il comportamento di un uomo della, dell'industria discografica. Insomma, c'è una cosa che mi ha consumato per un sacco di tempo, per quanto era ingiusta. Tu dici a qualcuno che quello che hanno detto, fatto è sbagliato, e dopo loro dicono a tutti quanti che tu sei pazza e vieni punita appunto per aver parlato. E siamo arrivati quasi alla fine di Bottled In di Kurt Weill, dall'ultimo album omonimo Bottled In. E abbiamo detto come appunto sia proprio workaholic Cat Le Bon. Quindi nel 2016 è uscito Crab Day, però nel 2017 esce un EP dal titolo Rock Pool, quindi esce oppure no, insomma lei già nell'aprile 2017 se ne va in isolamento, e noi abbiamo scelto Aside From Growing Old, molto molto carina. Poi racconta anche che molto registrava, suonava queste canzoni al pianoforte, se le registrava con l'iPhone e poi le riascoltava, non si ricordava neanche di averle suonate, composte, e l'ascoltava come se fosse un'altra persona e diceva: cazzo, sta donna sembra che sta perdendo la testa, sta perdendo il senno. Però c'è anche appunto molta indulgenza in questo disco, molto self-pity, autocommiserazione, che lei dice: l'autocommiserazione può essere una cosa veramente deliziosa quando sei da sola. E poi una cosa che ho notato in tutte le interviste, usa spessissimo il termine lovely, it's lovely, molto British. L'autocommiserazione può essere piuttosto deliziosa quando sei da sola, perché te lo puoi te lo puoi concedere, perché non la fai pesare a nessun altro, su nessun altro. E in Rock Pool, appunto l'EP del 2017, c'era un suo remake di questo pezzo che stiamo ascoltando, I Just Want to Be Good, di Sweet Baboo, ovvero Stephen Black, che in Reward suona sassofono e basso. Sweet Baboo nella live band c'è anche Chalkline, perché è un pezzo scritto da lei. Lei l'ha scritto per questo disco, The Boombox Ballads, The Sweet Baboo, nel 2015. Sweet Taboo. E poi nel Rock Pool, nell'EP, lei lo ha voluto rifare, una versione per sé, che si chiama I Just Wanna Be Good. Infatti si capisce che nel frattempo è andata negli Stati Uniti. E questa versione di Sweet Baboo è appunto lenta, così, molto romantica, e ci abbiamo voluto mettere una piccola intermission invece della versione di Kate Le Bon, che invece è molto molto più veloce ed elettrica. Infatti Sweet Baboo mi ricordava, Sweet Baboo sarebbe l'originale del famoso scimmiottino d'oro, nomignolo affettuoso e assolutamente odiato da lui, che Sally Brown usa per Linus. I'm a lovely little land, I was good on paper. I Just Want to Be Good, di Sweet Baboo, scritta da Kate Le Bon nel 2015 e rifatta a modo suo in Rock Pool del 2017. Ma continuiamo con questa intervista a cui stiamo saccheggiando da Hack Mag, in questo caso, appunto dopo aver parlato della autocommiserazione, e inizia. You don't love me. You don't love me. You don't love me. You don't love me. You don't love me. Sempre da Reward. I dream about dead hours and think about remaining within view. Lei dice: queste canzoni sono molto istintive. Ho scritto delle canzoni da un luogo da cui non mi ero mai permessa di scrivere canzoni prima, o se l'ho fatto non era un tipo di canzone che volevo nei miei dischi. Quindi è proprio bello accogliere, abbracciare queste canzoni, questo tipo di canzoni e questo tipo di emozioni e sentimenti, sensazioni. Mi piacerebbe dirti che è un insieme di canzoni molto molto personali, però sono invece ancora ammantate in ambiguità. Ma poi d'altra parte anche l'ambiguità è un modo di connettersi con le altre persone, perché le persone possono attribuire il loro significato a quello che sento. Quindi l'assurdità come modo di ingaggiare, intrattenere, creare rapporti, per me è un modo più interessante dell'essere diretti. E alla domanda, ma ti preoccupi che qualcosa di tanto personale possa essere frainteso? E lei dice, le persone fraintenderanno sempre, perché ognuno digerisce le cose in modo diverso e non sta a me controllare questa cosa. And I think that's lovely. Dice, perché questo modo di scrittura, che è quasi uno stream of consciousness, è di suo aperto all'interpretazione, anche per me. È come una lettera che arriva dal passato, quindi dopo posso riguardarla adesso e dire, ah, adesso capisco cosa significava. You don't love me, che dà luogo a un altro featuring. Ho scritto featuring eclettici, in quanto, e non l'avevo notato perché magari ero più attenta alla presenza di Saint Vincent, che è una grande estimatrice di Kate Le Bon, sono stati in tour insieme, ero molto più attenta magari alla presenza di Saint Vincent in questo disco o di Beck, e non avevo notato che proprio la title track Born in the Echoes, Chemical Brothers 2015, è cantata da Kate. Proprio una canzone nel suo stile. È semplicemente una canzone nel suo stile, perché l'ha scritta lei, quindi lei ha scritto un pezzo che ha dato il titolo a un album dei Chemical Brothers, l'ha scritta, gliel'ha data, però se l'è cantata. Ormai questa trasmissione, insomma, Maite FM doveva essere bella che finita, no, sono le 11 e noi siamo ancora qui a raccontarcela, e finiscono i Chemical Brothers, ovvero Kate Le Bon, per loro. E abbiamo detto, oltre gli album firma Kate Le Bon, nel 2015 e nel 2018 altri due album a firma Drinks, appunto insieme a Tim Priestley, di cui aveva prodotto un album nel 2016, The Wink, e aveva anche firmato a metà la title track, dove suonava la batteria Stella Mosgawa. E quindi poi è nato questo sodalizio nel 2015 con un primo album, Hermits on Holiday, seguito nel 2018 da Hippo Light, un disco abbastanza vario, ma noi ci siamo un po' innamorati di questo, che mi pare sia il primo pezzo, Blue from the Dark, molto bucolico. Poi ovviamente non c'è tempo per scorrere tutte le interviste, ma sono veramente interessanti, istruttive. Lei è proprio una gran persona, grande artista. Quindi ce n'è un'altra, magari consiglio la lettura di Dork Magazine, poi un'altra intervista di Under the Radar, Radar, e poi l'ultima del Rolling Stone. Sicuramente c'è una cosa interessantissima che non saprete mai. E finisce Blue from the Dark, ma abbiamo detto e ridetto che una delle primissime cose, appunto, tipo venerdì è finita la scuola e la domenica già era in America a lavorare con Bradford Cox. Una delle ultime, insomma, stellette, appunto, la produzione dell'album dei Deer Hunter, 14 novembre live al TPO. E abbiamo scelto i primi due pezzi perché questo inizio è molto britannico e perché Kate suona l'apsicord, seguito poi dalla mia preferita, No One Sleeping, dove invece lei suona il mandolino di Hunter. May God's will be done in these poisoned hills. And let the devil be cast out on his tail. There was a voice that burns me. Come on, and let's be sure, let's not fade away. Your friends have died, and their lives, they just fade away. Ricordo che questo pezzo credo di averlo postato appunto per la meraviglia che mi ha provocato l'ascolto. Qui c'è un po' di Bowie. Blue Jean. E anche una cosa che non abbiamo fatto è stato leggere le recensioni. Scandalo. Ecco, la meraviglia. Però possiamo dire che Reward di Kate Le Bon ha una metascore, ovvero una media di voti del 8.7 e che finora è l'undicesimo best album dell'anno. Possiamo dire che ha avuto un 10 da The Quietus e da Music OMH, quindi già due recensioni massimo dei voti è raro, poi un 9 da The Line of Best Fit, da All Music, da Uncut, 8.5 da Under the Radar, 8.4 da Pitchfork. Back to life. E arriva il pezzo di chiusura di Reward, Meet the Man. When he died, religion spoke. Did you ever look beyond belief? Oh, to love. Poi ci sono 10-8, tra i quali i voti di Rolling Stone, Clash Music, The AY Magazine, Q Magazine, Mojo. E poi non si capisce perché niente sotto all'8 tranne Paste Magazine, che gli dà poco più di 6. Possiamo solo leggere dalle due righe scelte come anteprima dal sito di tutte le recensioni. The Quietus dice: che Reward suona come un classico moderno, perché ha la longevità che molti pochi dischi. Infatti anche Olivia, fedele ascoltatrice, dice: non mi stanco mai di ascoltarlo questo disco. Poi Music OMH dice: quest'album, sebbene non sia, insomma, non si possa certo definire divertente, è un assoluto classico di architettura modernista e sicuramente la cosa migliore che abbia mai fatto. Album, diverse recensioni sto vedendo lo definiscono un album che riempie lo spazio, proprio come fa un mobile. And forse non l'ascolto più estivo, ma elegante, sontuoso, ricco, profondo. E finisce quest'ultima puntata della decima stagione di Mighty FM. Ciao da Claudia Mighty Mau. Ci sentiamo in autunno.